fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E salve ragazzi, noi siamo negli studi di Risto Radio Convento e sono in compagnia di Stefano. Stefano e Michele. E Michele, Stefano e Michele. E voi siete qui a festeggiare la vostra azienda, giusto? Certo, assolutamente, ci mancherebbe. Ricordiamo anche questo perché i nostri telespettatori da casa non lo sanno. Michele, lascio a te il nome dell'azienda. Esatto. Sì, noi siamo... Stiamo entrando adesso, stiamo affrontando una nuova avventura che si chiama The Gesta Tech. E insomma, le speranze sono tante, gli obiettivi sono ancora di più. Da quanto tempo lavorate? Da più di 20 anni, io direi. Sì, nel mondo SAP da 20 anni per me, non so, Stefano. Un po' di più, direi. Anche perché mi ha detto la ragazza che è uscita che più o meno è da 16 anni che c'è l'azienda. Esatto. Cioè lei era da 14 se non 12. Sì. Quindi voi siete proprio i primi storici noi dipendenti. Noi abbiamo da esperienze precedenti, quindi... Ma avete visto proprio nascere e crescere l'azienda? Non proprio, nel senso che noi arriviamo da esperienze diverse rispetto alla Gesta, quindi ci siamo aggregati, per così dire, al gruppo La Gesta, abbiamo creato una nuova società e quindi esistiamo da poco, però abbiamo un'esperienza da più di 20 anni. Mamma. Quindi siamo dei dinosauri, ma in realtà quasi dei pulcini, dai. Ho capito. All'interno siete pulcini, ma in realtà voi siete proprio esatto, il boom della conoscenza. Vero. Vero. Dove siete? A te, Michele. Treviso. E io, diciamo, trevigiano. Ho capito. Anche se vivo in provincia di Venezia. Bello. Bellissimo. Non ci sono mai stata a Venezia, bella. Ah, beh, ti viene. Cosa mi perdo? Dai. Come è andata la serata? Spiegatemi un po'. Serata stupenda tra amici, io direi veramente come chiusura quasi, diciamo. Eccezionale. Anche per me tra un po' tu gli amici, perché insomma bisogna costruire un po' il rapporto adesso, ma mi sembra che... Ne siete in tanti, costruire rapporti ce ne vuole di tempo, non si finisce mai. Che sia giusta, la strada sia giusta. È bellissimo così avere tante colleghi, bellissimo comunque secondo me, lavorare con un gruppo così grande. Direi assolutamente bello. Difficile, perché non è semplice andare d'accordo. Corretto. Però se si riesce a trovare il punto giusto, l'incastro da vicenda, secondo me è... Sì, direi in realtà, diciamo che Regesta è una realtà, secondo me, eccezionale per il mondo di Bresciano, no? E con noi siamo approdati in Veneto, quindi... ci siamo ampliati da un punto di vista geografico, quindi bellissima realtà, grandi amici, bello. Ci divertiamo, lavorare divertendosi secondo me è il massimo, perché non vai con il peso che vai al lavoro, assolutamente, quindi assolutamente. Già ti passa in modo diverso la giornata, assolutamente, ma in modo diverso di affrontare il lavoro. In particolare di cosa vi occupate, Michele? Dal lato tecnico ci occupiamo di integrazioni con i CAD, in realtà con tutto il mondo che gira attorno a SAP. Il lato pratico in realtà ci interagiamo con tutto quello che può piacere al cliente, tutto quello che può essere la necessità del cliente. Non abbiamo mai limiti, non ci poniamo mai limiti. Diciamo che vogliamo dare un valore aggiunto ai nostri clienti nell'implementazione di quello che è tutta la parte di che noi chiamiamo Industry 4.0 e quindi diciamo che vogliamo essere una parte proattiva per i nostri clienti per implementare quelle che sono le loro esigenze. Bellissimo ragazzi, rimango affascinata perché per me è una materia completamente nuova, quindi giustamente certo. È interessante ascoltare certo. Altre cose che non avevo mai ascoltato finora, ragazzi. Io vi lascio proseguire la serata prima che andate via, non so che ora avete voi la navetta. urbano e andiamo via con l'auto proprio. Allora ciao. No, perché infatti Eleonora, allora Lora non la lavetta all'una, Lora non la lavetta alla due, Lora alle tre. Ho detto io siamo non lo so. Autonomi, siamo autonomi. Va bene ragazzi, allora io vi lascio proseguire. Grazie fuori mille. La serata, dai. Grazie a te. Buona serata. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.